Non voglio perderti, vorrei prenderti, afferrarti per farti sentire il mio calore. Tu sei la mia luce, sei come il sole splendente. Per te non ho le parole, rimango senza fiato, mi fa aumentare il battito che avrò quando ti rincontrerò. E se te ne andrai sarò qui che ti aspetterò. Alle tentazioni giuro, io non cadrò. Ho voglia di abbracciarti per non farti fuggire via da me, vorrei afferrarti per poi non lasciarti mai, tenerti sempre accanto per vedere quando sei splendente. Il tuo viso che brilla sotto le stelle, non sprechi tempo, cogli l'attimo fuggente. E se tu mi regalerai un sorriso, per me sarà come essere in paradiso. Tu sei la mia ragione, tu sei la mia emozione, allevi ogni dolore, ogni frustrazione. Aiuti a rendermi ogni giorno migliore, ciò che provo va oltre l'immaginazione. Tu sei la mia ragione, tu sei la mia emozione, allevi ogni dolore, ogni frustrazione. Aiuti a rendermi ogni giorno migliore, ciò che provo va oltre l'immaginazione. Perso nel vuoto da troppi pensieri negativi, risalgo su quando vedo che mi sorridi. È come un brutto sogno ad occhi aperti, ma con te nella testa tolgo gli spettri che occupano la mia mente, mi portano a commettere azioni da incosciente. Ma se ci sei tu a bloccarmi, calmarmi, già solo per questo dovrei ringraziarti. Non è amore, ma è passione, del mio affetto te ne do la dimostrazione. Nuove sensazioni che fioriscono con te, sei la risposta a ogni mio perché. Il tuo respiro sulla mia pelle, notti intere a guardare le stelle. Capisco dei tuoi gesti che sei unica davvero, e ciò che mi dai è immenso come il cielo. Tu sei la mia ragione, tu sei la mia emozione, allevi ogni dolore, ogni frustrazione. Aiuti a rendermi ogni giorno migliore, ciò che provo va oltre l'immaginazione. Tu sei la mia ragione, tu sei la mia emozione, allevi ogni dolore, ogni frustrazione. Aiuti a rendermi ogni giorno migliore, ciò che provo va oltre l'immaginazione. Tu sei la mia ragione, tu sei la mia emozione, allevi ogni dolore, ogni frustrazione. Aiuti a rendermi ogni giorno migliore, ciò che provo va oltre l'immaginazione. Tu sei la mia ragione, tu sei la mia emozione, allevi ogni dolore, ogni frustrazione. Aiuti a rendermi ogni giorno migliore, ciò che provo va oltre l'immaginazione.